terzo anello. Ad alta voce, Tony Servillo legge Gli indifferenti di Alberto Moravia. Introduzione di Simone Casini. Alberto Moravia aveva 21 anni quando nel 29 pubblicò Gli indifferenti. Era il suo primo romanzo. Fino a quel momento il giovane Alberto Pinkerle, questo era il suo vero cognome, aveva condotto una vita molto solitaria. Una grave malattia ossea lo aveva costretto a letto per lunghi periodi dell'adolescenza e ne era guarito dopo quasi 2 anni di sanatorio a Cortina d'Ampezzo. E a Bressanone, in Alto Adige, durante la convalescenza che precedette il ritorno a casa, a Roma, aveva iniziato appunto a scrivere Gli indifferenti. Così infatti ricorderà anni dopo: ho cominciato a scrivere Gli indifferenti nell'ottobre del 25 e l'ho finito nel marzo del 1928. Scrivevo a letto, incastravo il calamaio tra le lenzuola. La prima versione del romanzo l'ho scritta su carta velina, perché non avevo trovato di meglio a Bressanone. Ecco, Gli indifferenti nascono da un'esperienza vissuta dell'autore molto particolare, di solitudine e di sofferenza, da una fame di realtà e di vita che gli sono finora mancate, e quindi anche da una spiccata e inevitabile tendenza all'introspezione. Ma nascono anche da grandi letture da autodidatta. Il giovane Moravia ama per esempio soprattutto Dostoevskij, che sente, sono parole sue, come il romanziere degli emarginati, ed io ero un emarginato. Ma ha letto tempestivamente anche i grandi maestri della nuova letteratura degli anni venti, Proust, Joyce, Pirandello. Una volta tornato a Roma, poi entra in contatto con l'ambiente della rivista Novecento, dove il romanzo fu annunziato con titoli ancora provvisori come 5 persone e 2 giorni, dove è chiara l'impostazione teatrale, oppure Gli Ardengo, Lisa e Merumeci. Anche questo sembra quasi un elenco dei pochi attori del dramma. L'influenza del teatro pirandelliano in particolare, è evidente sin dalle prime pagine del romanzo. E in una testimonianza successiva lo scrittore dirà infatti: mi ero messo in mente di scrivere un romanzo che avesse al tempo stesso le qualità di un'opera narrativa e quelle di un dramma. Un romanzo con pochi personaggi, pochissimi luoghi, un'azione svolta in poco tempo. E fu così che il romanzo uscì, finanziato dal padre, nel 29, per l'editore milanese Alpes. Il successo è immediato, inatteso e clamoroso. Anche altri suoi romanzi, ne scriverà 18 nella sua lunga e infaticabile carriera di scrittore, otterranno un grande successo di pubblico e di critica. Ma Gli indifferenti restano la sua opera decisiva, quella più sorprendente, più rappresentativa. Non sono il frutto acerbo di un giovane esordiente che deve ancora maturare. Sono il frutto già maturo di uno scrittore che subito, con sorprendente sicurezza, si colloca al centro della propria ispirazione. Temi e figure degli indifferenti costituiranno infatti il riferimento ineludibile e in certo senso archetipico di tutta la successiva opera di Moravia. Lo stile asciutto, scevro di bellurie, come osservò il critico del Corriere della Sera Borgese, sembrava il contrario di quella prosa d'arte attenta al bello stile più che alle cose che era tanto in auge nell'Italia di quegli anni. Ciò che però sorprende è che in questo dramma i lettori, già nel 29, videro subito qualcosa di molto più generale, qualcosa che riguardava tutti. La denuncia di un malessere diffuso nella società del tempo, il ritratto di una borghesia di nuovo tipo, cinica e disillusa, che in quegli anni del fascismo trionfante nessuno aveva avuto il coraggio di rappresentare in modo così preciso, diretto, spietato. Tuttavia, l'obiettivo iniziale del giovane scrittore esordiente non era quello di rappresentare realisticamente il proprio tempo o denunciare moralisticamente la borghesia romana e il fascismo. Moravia volle anzitutto rappresentare il dramma interiore di un personaggio che deve compiere un'azione da cui dipende il suo destino e la sua stessa identità, ma non riesce a compierla. In questo senso, Moravia è davvero, come è stato spesso detto, un precursore dell'esistenzialismo. Ma questo scavo dentro i personaggi, dentro i loro pensieri e sentimenti, non annulla la realtà. Anzi, coincide con una forza rappresentativa degna di un grande scrittore realista. Tutto lo sforzo di Moravia e del suo personaggio è rivolto a uscire da una interiorità claustrofobica per ristabilire il rapporto vero, pieno, vitale con la realtà. Ecco, gli indifferenti hanno oggi quasi 80 anni, ma non hanno perso nulla di questa forza giovanile che cerca di rompere una situazione chiusa, di trovare l'aria aperta della realtà. Ecco, vi lascio alla lettura di Toni Servillo. Buon ascolto. Entrò Carla. Aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe. Ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, binoccolata e malsicura. Una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano. Un'oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto. «Mamma sta vestendosi», ella disse avvicinandosi, «e verrà giù tra poco. L'aspetteremo insieme», disse l'uomo curvandosi in avanti. «Vieni qui, Carla. Mettiti qui». Ma Carla non accettò quest'offerta. In piedi, presso il tavolino della lampada, con gli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del paralume nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell'ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e la loro solidità, ella provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese, un asino molto carico sul quale tra due cesti sedeva una specie di Buddha campagnolo, un contadino grasso dal ventre avvolto in un kimono a fiorami. La testa andava in su e in giù, e Carla, dagli occhi bassi, dalle guance illuminate, dalle labbra strette, pareva tutta assorta in questa occupazione. «Resti a cena con noi?» ella domandò al fine senza alzare la testa. «Sicuro?» rispose Leo accendendo una sigaretta. «Forse non mi vuoi?» Curvo, seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con un'attenzione avida. Gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile. «Che bella bambina!» egli si ripeté. «Che bella bambina!» La libidine sopita quel pomeriggio si ridestava. Il sangue gli saliva alle guance. Dal desiderio avrebbe voluto gridare. Ella diede ancora un colpo alla testa dell'asino. «Ti sei accorto quanto fosse nervosa mamma oggi al tè? Tutti ci guardavano». «Affari suoi», disse Leo. Si protese e senza parer di nulla sollevò un lembo di quella gonna. «Sai che hai delle belle gambe, Carla?» disse volgendole una faccia stupida ed eccitata, sulla quale non riusciva ad aprirsi un falso sorriso di giovialità. Ma Carla non arrossì né rispose. Con un colpo secco abbatté la veste. «Mamma è gelosa di te», disse guardandolo. «Per questo ci fa a tutti la vita impossibile». Leo fece un gesto che significava «che ci posso fare io?». Poi si rovesciò da capo sul divano e accavalciò le gambe. «Fai come me», disse freddamente. «Appena vedo che il temporale sta per scoppiare, non parlo più. Poi passa e tutto è finito». «Per te, finito», ella disse a voce bassa. E fu come se quelle parole dell'uomo avessero ridestato in lei una rabbia antica e cieca. «Per te? Ma per noi? Per me?» proruppe con labbra tremanti e occhi dilatati dall'ira, puntandosi un dito sul petto. «Per me che ci vivo insieme non è finito nulla». Un istante di silenzio. «Se tu sapessi», ella continuò con quella voce bassa a cui il risentimento marcava le parole e prestava un singolare accento come straniero, «quanto tutto questo sia opprimente e miserabile. E gretto, e quale vita sia assistere tutti i giorni, tutti i giorni». Da quell'ombra laggiù che riempiva l'altra metà del salotto, l'onda morta del rancore si mosse, scivolò contro il petto di Carla, disparve, nera e senza schiuma. Ella restò con gli occhi spalancati, senza respiro, resa muta da questo passaggio di odio. Si guardarono. «Diavolo», pensava lei un po' stupito da tanta violenza, «la cosa è seria». Si curvò, tese l'astuccio. «Una sigaretta?» propose con simpatia. Carla accettò, accese e tra una nuvola di fumo gli si avvicinò ancora di un passo. «E così?» egli domandò guardandola dal basso in alto. «Proprio non ne puoi più?» La vide annuire un poco impacciata dal tono confidenziale che assumeva il dialogo. E allora soggiunse, «sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia». «È quello che finirò per fare», ella disse con una certa teatrale decisione. Ma le pareva di recitare una parte falsa e ridicola. Così era quello l'uomo a cui questo pendio di esasperazione l'andava insensibilmente portando. Lo guardò. né meglio né peggio degli altri. Anzi, meglio senza alcun dubbio, ma con in più una certa sua fatalità che aveva aspettato 10 anni che ella si sviluppasse e maturasse per insidiarla ora, in quella sera, in quel salotto oscuro. «Cambia», le ripeté, «vieni a stare con me». Ella scosse la testa, «sei pazzo?» «Ma sì». Leo si protese e l'afferrò per la gonna. «Daremo il ben servito a tua madre, la manderemo al diavolo, e tu avrai tutto quello che vorrai, Carla». Tirava la gonna. L'occhio eccitato gli andava da quella faccia spaventata ed esitante a quel po' di gamba nuda che si intravedeva là, sopra la calza. Portarmela a casa, pensava, possederla. Il respiro gli mancava, tutto quello che vorrai, vestiti, molti vestiti, viaggi. Viaggeremo insieme. È un vero peccato che una bella bambina come te sia così sacrificata. Vieni a stare con me, Carla. Ma tutto questo è impossibile, ella disse tentando inutilmente di liberare la veste da quelle mani. C'è mamma, è impossibile. Le daremo il ben servito, ripeté Leo afferrandola questa volta per la vita. La manderemo a quel paese. È ora che la finisca. E tu verrai a stare con me, è vero? Verrai a stare con me che sono il tuo solo vero amico, il solo che ti capisca e sappia quello che vuoi. La strinse più da vicino nonostante i suoi gesti spaventati. Essere a casa mia, pensava. E queste rapide idee erano come lucidi lampi nella tempesta della sua libidine. Le farei vedere allora che cosa vuole. Alzò gli occhi verso quella faccia smarrita e provò un desiderio per rassicurarla di dirle una tenerezza qualsiasi. Carla, amore mio. Ella fece di nuovo il vano gesto di respingerlo, ma ancora più fiaccamente di prima, che ora la vinceva una specie di volontà rassegnata. Perché rifiutare Leo? Questa virtù l'avrebbe rigettata in braccio alla noia e al meschino disgusto delle abitudini. E le pareva inoltre, per un gusto fatalistico di simmetrie morali, che questa avventura quasi familiare fosse il solo epilogo che la sua vita meritasse. Dopo, tutto sarebbe stato nuovo. La vita e lei stessa. Guardava quella faccia dell'uomo, là, tesa verso la sua. Finirla, pensava, rovinare tutto. E le girava la testa come a chi si prepara a gettarsi a capofitto nel vuoto. Ma invece supplicò, lasciami, e tentò di nuovo di svincolarsi. Pensava vagamente prima di respingere Leo e poi di cedergli. Non sapeva perché. Forse per avere il tempo di considerare tutto il rischio che affrontava, forse per un resto di civetteria. Si dibatté invano. La sua voce sommessa, ansiosa e sfiduciata ripeteva in fretta la preghiera inutile. Restiamo buoni amici, Leo. Vuoi? Buoni amici, come prima. Ma la veste tirata le riscopriva le gambe. E c'era in tutto il suo atteggiamento renitente, in quei gesti che faceva per coprirsi e per difendersi, e in quelle voci che le strappavano le strette libertine dell'uomo, una vergogna, un rossore, un disonore che nessuna liberazione avrebbe potuto più abolire. «Amicissimi», ripeteva Leo quasi con gioia, e torceva in pugno quella vesticciola di lana. «Amicissimi, Carla», stringeva i denti. Tutti i suoi sensi si saltavano alla vicinanza di quel corpo desiderato. «Ti ho, al fine», pensava torcendosi tutto sul divano per fare un posto alla fanciulla, e già stava per piegare quella testa, là, sopra la lampada, quando dal fondo oscuro del salotto un tintinnio della porta a vetri l'avvertì che qualcheduno entrava. Era la madre. La trasformazione che questa presenza portò nell'atteggiamento di Leo fu sorprendente. Subito egli si rovesciò sullo schienale del divano, accavalciò le gambe e guardò la fanciulla con indifferenza. Anzi, spinse la finzione fino al punto di dire col tono importante di chi conclude un discorso incominciato: «Credimi, Carla, non c'è altro da fare». La madre si avvicinò. Non aveva cambiato il vestito, ma si era pettinata e abbondantemente incipriata e dipinta. Si avanzò là dalla porta con qualche passo mal sicuro. E nell'ombra la faccia immobile, dai tratti indecisi e dai colori vivaci, pareva una maschera stupida e patetica. «Vi ho fatto molto aspettare», domandò. «Di che cosa stavate parlando?» Leo additò con un largo gesto Carla, dritta in piedi nel mezzo del salotto. «Stavo appunto dicendo a sua figlia che questa sera non c'è altro da fare che restare in casa». «Proprio nient'altro», approvò la madre con sussiego e autorità, sedendosi in una poltrona in faccia all'amante. «Al cinema siamo già state oggi. E nei teatri danno tutte cose che abbiamo già sentite. Non mi sarebbe dispiaciuto di andare a vedere 6 personaggi della compagnia di Pirandello, ma, francamente, come si fa? È una serata popolare». «E poi le assicuro che non perde nulla», osservò Leo. Questa poi no, protestò mollemente la madre. Pirandello ha delle belle cose. Come si chiamava quella sua commedia che abbiamo sentito poco tempo fa? Aspetti. Ah sì, La maschera e il volto. Mi ci sono tanto divertita. Ma sarà, disse Leo rovesciandosi sopra il divano. Però io mi ci sono sempre annoiato a morte. Mise i pollici nel taschino del panciotto e guardò prima la madre e poi Carla. Dritta, dietro la poltrona della madre, la fanciulla ricevette quell'occhiata inespressiva e pesante come un urto che fece crollare in pezzi il suo stupore di vetro. Allora per la prima volta si accorse quanto vecchia, abituale e angosciosa fosse la scena che aveva davanti agli occhi. La madre e l'amante seduti in atteggiamento di conversazione, l'uno in faccia all'altra. Quell'ombra, quella lampada, quelle facce immobili e stupide, e lei stessa affabilmente appoggiata al dorso della poltrona per ascoltare e per parlare. La vita non cambia, pensò, non vuol cambiare. Avrebbe voluto gridare. Abbassò le due mani e se le torse, là, contro il ventre, così forte che i polsi le si indolenzirono. «Possiamo restare in casa», continuava la madre, «tanto più che abbiamo tutti i giorni della settimana impegnati. Domani ci sarebbe quel tè danzante pro infanzia abbandonata, dopodomani il ballo mascherato al grande hotel, negli altri giorni siamo invitate un po' qua, un po' là, e... Carla, ho veduto oggi la signora Ricci, è invecchiata a un tal punto, l'ho osservata con attenzione». Ha due rughe profonde che le partono dagli occhi e le arrivano alla bocca, e i capelli non si sa più di che colore siano. Un orrore. Ella storse la bocca e agitò le mani in aria. Non è poi questo orrore, disse Carla facendosi avanti e sedendosi presso l'uomo. Una leggera, dolorosa impazienza la pungeva. Prevedeva che per vie indirette e tortuose la madre sarebbe al fine arrivata a fare, come sempre, la sua piccola scena di gelosia all'amante. Non sapeva quando e in che modo, ma ne era certa come del sole che avrebbe brillato all'indomani e della notte che l'avrebbe seguito. E questa chiaroveggenza le dava un senso di paura. Non c'era rimedio. Tutto era inamovibile e dominato da una meschina fatalità. Tony Servillo ha letto Gli Indifferenti di Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.